sospir che vien dal profondo del cor. In un sospir, sospir che vien, sospir che vien dal profondo del cor. In un bacio, oh cara, cara, ed un addio. Ci rivedrem ben tosto, sì, sì, ci rivedrem. Ci rivedrem ben tosto, idolo mio. Ci rivedrem ben tosto, idolo mio. Splendor negli occhi, e